내놓았지오네. 라디오아치오네 punto org. 라디오아치오네. controinformazione, letture, rotazioni, musica. Radioazione. Radioazione.org. Radioazione. Controinformazione, letture, rotazioni, musica. Thank you. Radiazione lunedì 20 aprile, oggi come tutti i lunedì su Radiazione nella diretta d'azione ci sarà la controinformazione ma soprattutto la lettura. Ricordo a quanti stanno ascoltando ora per la prima volta Radiazione che come letture stiamo leggendo Nessuno ci salva di Sergio Spiasecki, il libro che abbiamo iniziato con proprio a settembre, a metà settembre, con la prima diretta per quest'anno, per questa nuova stagione di Radiazione, e che siamo quasi con cui siamo arrivati quasi alla fine. Ricordo subito gli indirizzi utili per Radiazione, dico anche che poco prima della diretta d'azione è andato in onda l'ultima parte di lettura di Nessuno ci salva della settimana scorsa, così evitiamo di fare noiosi riepiloghi ogni lunedì. Allora, gli indirizzi della Radiazione: radiazione@autistici.org per chi vuole scrivere, mandarci comunicati, materiale tipo manifesti, non lo so, tutte le notizie di controinformazione che volete mandarle, potete mandarla a questo indirizzo di via mail, radiazione@autistici.org, dove potete anche mandarci qualche consiglio sul prossimo libro da leggere su Radiazione, che ricordo sempre bene che non sono testi anarchici, bensì romanzi o testi di narrativa, comunque storie inventate, ma comunque che hanno delle tematiche che possono anche riguardarci, che ci stanno simpatiche. Non a caso Nessuno ci salva parla di storie di ladri, quindi chi odia il lavoro salariato può prendere spunto da questo libro. Io lo consiglio, chi non ha ascoltato le dirette precedenti può ascoltarsi i podcast oppure leggersi il libro. Sergio Spiasecki, Nessuno ci salva. Ricordo il sito di Radiazione, che è radiazione.org, dove potete leggere quotidianamente la controinformazione aggiornata, dove potete scaricarvi un bel po' di materiale nella pagina download oppure nella pagina di edizioni Radiazione, che in quella download è un po' in generale, sono tutte le cose che ci inviano i compagni e che vogliono che vengano divulgate liberamente e quindi messe free download. Sulla pagina di edizione Radiazione invece ci trovate tutta una serie di opuscoli che abbiamo fatto uscire noi come edizione Radiazione, e in più, ultima cosa, il CD che è stato messo qualche giorno fa a free download, un CD che doveva uscire insieme al libro con il racconto di Nazero 13, il racconto scritto da sottoscritto, io dico sempre sto scritto da sottoscritto, scritto da me, e quindi per motivi economici, diciamolo, non è potuto accadere, almeno per questo momento, e quindi ho preferito mettere il CD scaricabile, che è benefit per i compagni detenuti, quindi chi lo scarica, chi lo mette in diffusione, poi ne fa copia e lo mette sui banchetti, si spera, sarei contento se mandasse i soldi alle casse anarchiche di solidarietà per i compagni detenuti. Altrimenti ve lo scaricate per voi stessi, è cazzi vostri. Allora, ricordo che Radiazione è il sito di Radiazione Bilingue, cioè quella italiana che ormai va avanti da 4 anni, e c'è quello in lingua croata più giovane, c'ha un anno e mezzo come sito, portato avanti dalla compagna croata di Radiazione. Chi capisce il croato può cliccare sul banner che trova in sidebar di Radiazione Italiano, lo trovate su in cima, ci cliccate sopra e vi si apre il sito di Radiazione Croazia. Il sito e la radio sono appoggiati e vengono ospitati sul server di anarchia.net, messo a disposizione dal compagno di Anarchist Library, che ringraziamo e salutiamo sempre. Detto questo, ho detto tutto, mi sembra. Gli indirizzi li ho dati tutti, il numero di telefono non ve lo do perché sarebbe un po' troppo eccessivo, altrimenti vabbè, chi vuole ce l'ha il mio numero di telefono. Non parlo dei compagni, parlo di altra gente, quindi potrei anche darlo, ma non lo do. Allora, ascoltiamoci prima un brano dei Panzonic, poi nell'attesa che arriva Marcello partiamo subito con la controinformazione. Painovomia, Gravity, Panzonic e poi dopo controinformazione. We'll be right back. E questi erano Panzonico con il brano Peno Vomia. Ora passiamo alla controinformazione. Intanto è arrivato pure Marcello, quindi ci siamo. Quindi iniziamo subito con un paio di notizie brevi di controinformazione. La prima che è arrivata dalla Grecia sono degli aggiornamenti sulla repressione in Grecia e in Regno Unito. Con il nuovo rapporto dello sbirresco giornalistico si è tentato di individuare i compagni che hanno dei contatti sporadici con i membri detenuti della cospirazione delle cellule di fuoco. In questo caso hanno cercato di localizzare i compagni inglesi che, come dice il rapporto degli sbirri, pubblicano una rivista insurrezionale anarchica in Gran Bretagna, per indagare sul perché i compagni dell'Ersero vengono in Grecia in date specifiche. Prendono anche in considerazione l'importanza della presenza delle cellule FAI nel paese e riferiscono che un gruppo di sbirri greci verrà in Gran Bretagna per informare i loro colleghi. Si tratta di una caccia alle streghe che adesso prende di mira anche i compagni all'estero. Il caso di fuga delle CCF diventa un alibi perfetto dopo diversi mesi di propaganda mediatica per fare piazza pulita e dare la caccia a quei compagni che sono già presi di mira dagli sbirri. E questo era un testo scritto da alcuni solidali. Invece l'altra breve notizia è un manifesto, quello che arriva dal Cile, manifesto in solidarietà con Natalie Casanova, Juan Flores, Guillermo Duran in sciopero della fame dal 14 aprile. Il manifesto lo riceviamo via mail, inizia con una citazione proprio di Natalie che dice: oggi in Cile come in Grecia e Spagna si castiga la solidarietà, l'affetto e le sue bellezze. Salutiamo i compagni Natalie Casanova, Juan Flores e Guillermo Duran che dal 14 aprile hanno iniziato uno sciopero della fame esigendo la liberazione di Enrique Guzman, arrestato la notte del 6 aprile e messo in prigione preventiva. La fine della persecuzione contro i loro vicini da parte della miserabile istituzione della gendarmeria e le braccia depressiva dello Stato, esigendo inoltre la fine dell'isolamento a cui è sottoposta la compagna Natalie Casanova. In questi mesi di prigione preventiva i compagni hanno affrontato con dignità le manovre repressive dei carcerieri senza retrocedere di un millimetro nelle loro convinzioni di guerra e di idee per la libertà. Dalla strada solidarizziamo incondizionatamente con loro, riconoscendoli come compagni e come parte della nostra lotta contro il potere e tutta l'autorità. Solidarietà e azione con i compagni sciopero della fame dal 14 aprile, avanti e su piede di guerra. E questo era per quanto riguarda il manifesto, che poi trovate anche sul sito di Radiazione, in solidarietà con i compagni sciopero della fame. Ora ci ascoltiamo un brano. Loro sono Balkansky e Loopster Walker, il brano è Fire, e poi dopo si torna qui e si inizia subito la prima lettura di oggi di Nessuno ci salva di Sergio Piasecki. Il cuore della dolce Paolinka. La banda armata di Monich continuava a sfuggire da 2 mesi alla caccia spietata che le davano le truppe regolari. Varie volte il ribelle era stato sul punto di cadere in trappola, ma era sempre riuscito a sgusciare dalle mani dei suoi inseguitori, lasciando dietro di sé una scia sanguinosa. Era quella una guerra di carretti, così chiamata perché i comandi della spedizione punitiva organizzata contro i ribelli requisivano ai contadini i loro carri agricoli che poi scorazzavano per le campagne, pieni di soldatesca, dando la caccia ai controrivoluzionari e ai cosiddetti banditi bianchi, come venivano definiti tutti quelli che si rifugiavano nei boschi e sulle montagne per salvare la loro vita e la loro libertà. I reparti di clandestini, le bande, si componevano di disertori dell'esercito rosso, ma anche di contadini, borghesi e operai che non volevano sapere del regime bolscevico. Gli intellettuali ce n'erano ben pochi, e più cadevano come pecore sotto la mazza bolscevica perché non avevano il coraggio di abbandonare le città e di affrontare una vita selvaggia, libera e piena di rischi. I ribelli si facevano forti della loro perfetta conoscenza del terreno, della simpatia che godevano presso le popolazioni e della rapidità con cui si spostavano da un luogo all'altro. I bolscevichi, invece, impacciati dalle salmerie e da una quantità eccessiva di armi pesanti, si trascinavano per mesi e mesi in giro per i boschi entro i quali i ribelli si destreggiavano con la massima agilità. Di solito i reparti speciali si tenevano in stretto contatto tra loro per poter formare, in caso di bisogno, dei gruppi più numerosi, ma per lo più si trattava di piccoli nuclei isolati di una 50 di uomini che agivano indipendentemente gli uni dagli altri. In quel tempo divennero famosi alcuni capibanda ribelli, oriundi della Russia bianca, come Gerjak e il Corvo, il cui vero nome non è mai stato conosciuto. Monich si teneva in contatto con essi, ma per lo più agiva da solo. Era un tipo troppo indipendente per sottomettersi agli ordini di un altro. Passava quei suoi uomini da una provincia all'altra, batteva i confini dei voivodati, attaccando i presidi isolati e reparti in marcia. Insomma, giocava a scacchi con la morte. Il suo gruppo, forte di circa 40 uomini, formava un'unità temibile e decisa a tutto. Erano ben armati, con armi leggere che non li impacciavano nel momento. Alcuni avevano moschetti da cavalleria e più invece erano armati di rivoltelle e bombe a mano. Tutto il reparto non possedeva che un unico fucile mitragliatore. Portavano con sé pochi viveri. Le casse degli uffici dei bolscevichi che essi assalivano nei piccoli centri fornivano loro il denaro necessario per provvedere giorno per giorno alle loro necessità dovunque si trovassero. Dunque, da una settimana, Monich e i suoi uomini si trovavano circondati da notevoli forze rosse in una zona paludosa e impossibile da attraversare. Appena si rese conto della situazione, Monich decise di sfuggire alla trappola, spezzando quella notte stessa l'accerchiamento, perché il giorno dopo poteva essere troppo tardi. Infatti, i suoi informatori lo avevano avvertito che una compagnia sarebbe giunta all'alba in appoggio degli attaccanti, decisi questa volta a sterminare la sua banda. Monich disponeva di 47 uomini, ne lasciò di guardia una decina e diede ordine a tutti gli altri di andare a riposare. Dormite ragazzi, perché più tardi avremo da fare e in seguito ci attende una lunga marcia. Andò con 2 uomini a esplorare il terreno. La palude si curvava in una specie di arco alle loro spalle. La corda di quell'arco era occupata dallo schieramento bolscevico. Gli avamposti nemici, appena si accorsero di loro, aprirono il fuoco. Monich rispose con qualche colpo e ritornò all'accampamento. Esaminando attentamente la carta della regione, tracciò la direzione d'attacco, e questo doveva aver luogo a mezzanotte ed essere diretto giusto al centro della corda. L'obiettivo: sfondare le linee avversarie e aprirsi la strada verso la foresta 3 chilometri più a oriente, attraversarla e raggiungere Borisov. We'll be right back. Shift 69 con il brano Graphics. Ora si ritorna alla controinformazione dopo la prima lettura di oggi di Nessuno ci salva di Sergio Spiasecki. Lo facciamo con un testo di Fallon, la compagna che da poco è stata scarcerata in Messico insieme ad Amelie e Carlos, che poi si è data alla fuga e di cui abbiamo letto il testo venerdì nella diretta d'azione. Di Fallon dice: di ritorno in strada dopo un anno e più di prigione, sarebbe una bugia dire che tutto è stato facile. Si tratta di un misto di belle esperienze e momenti di incertezze che sono difficili da condividere. L'essere stata privata del corpo, di ogni autonomia psichica, essere sola con me stessa è stata una battaglia quotidiana, un misto di paura e di felicità, ma i complici che mi hanno accompagnato, vicini e lontani, sono stati più che consapevoli e molto presenti. La sensibilità è la forza di una solidarietà senza limiti. Mi piacerebbe con questa piccola lettera mandare un saluto sincero e complice a coloro che sono in fuga, a quelli che sono ancora sequestrati nelle carceri del mondo e a quelli che lottano per la libertà in questa grande prigione a cielo aperto. Sono stata in galera dove ogni giorno arrivano nuove persone, la repressione diventa sempre più forte e dopo questa esperienza voglio ringraziare la solidarietà senza confini che abbiamo ricevuto, la lotta continua con tutti coloro che combattono per la loro libertà. Un grido di forza ribelle e sincero per le anime ribelli che hanno incrociato il mio percorso e mi hanno toccato con la loro sensibilità e forza. Un saluto speciale a Civo, compagno o fratello, spero che tu stia bene dovunque sei e ti avrò sempre presente, e anche un forte abbraccio alle compagne di Santa Marta che portano il mio cuore. Questo era il testo di Fallon, invece rimanendo sempre da quelle parti, però in Cile, diamo degli aggiornamenti sul caso Bombas 2. A Juan Flores, Natalí Casanova, Enrique Guzmán, Guillermo Durán saranno riformulate le accuse da parte della nauseante Procura Sud presso il 15° Tribunale di Garanzia. Il pubblico ministero designato Claudio Orellana ha sottolineato che nel cosiddetto caso Bombas 2 questa riformulazione delle accuse servirà per specificare il numero di vittime e danni negli attacchi e per inserire Enrique nello stesso processo. Ricordiamo che durante l'ultima udienza sia Juan che Natalí sono stati ammanettati mani e piedi con un assurdo dispiegamento di sicurezza che cerca solo di piegare i nostri fratelli e sorelle. Solidarizziamo attivamente con i compagni Juan, Natalí, Enrique e Guillermo in sciopero della fame dal 14 aprile. E queste erano le due notizie di controinformazione per il momento. Ora ci ascoltiamo un altro brano. Loro sono Analogic Guerrilla, il brano è EFK. E poi dopo si ritorna qui con una nuova lettura di Nessuno ci salva di Sergio Spiaseschi. Thank you. Monic si buttò a terra e dormì un paio d'ore. Poi diede il cambio alle sentinelle e mandò alcuni uomini con l'ordine di accendere una fila di fuochi sul lato sinistro dell'arco in cui si trovavano assediati. E un'ora dopo, infatti, si videro brillare i falò e dal bosco giunse, portato dal vento, l'eco dei cori. Erano canti guerreschi della Russia bianca alternati a nostalgiche nenie. Calò allora una silenziosa notte d'estate, tutta trapuntata di stelle. Monic ordinò ai suoi uomini di rifocillarsi, poi li radunò e tenne loro un discorso. «Compagni, siamo stati tagliati fuori, ma c'è sempre il modo di cavarsela», e palpò la rivoltella che gli pendeva dal fianco. «Tra una mezz'ora ci metteremo in marcia, toglietevi le scarpe e armi alla mano. Quattro uomini rimarranno ai fuochi finché non inizierà il combattimento, allora verranno a raggiungerci». Ma riusciremo a spuntarla, non è mica la prima volta che stanno per prenderci in trappola, basta non disperderci e stare sempre uniti. I falò ardevano sempre con maggior veemenza, le fiamme raggiungevano le cime degli alberi, una calda voce tenorile intonò: «Andiamo, fratelli, a cercare un rifugio dove il fogliame è più folto. Nostra madre, la notte, ci accoglierà nel suo seno, nostro padre, il bosco, a braccia aperte, ci aspetta». Il coro si unì al ritornello e la canzone volò fino alle linee nemiche. Appena si spense l'eco dell'ultima strofa, si udì un suono festoso di un'armonica, mentre 43 uomini avanzavano cauti e silenziosi nella notte, come contrabbandieri al passaggio del confine. A un certo punto Monic si rese conto che i rossi erano vicini. Udiva delle voci a una trentina di passi dal posto dove si trovava, alla testa dei suoi uomini. Con un gesto fermò il primo, gli bisbigliò di sedersi a terra e di infilarsi le scarpe. Questi trasmise l'ordine al compagno che gli veniva dietro e questi al terzo. Pochi istanti dopo tutto il reparto era pronto. Monic allora tornò sui suoi passi verso i fuochi e chiamò i quattro uomini rimasti che intanto avevano continuato a suonare, a cantare e a far baccano. «Su ragazzi, seguitemi!» E quelli si infilarono subito le scarpe, per nulla preoccupati di dover affrontare un'azione così rischiosa. Ne avevano passate tante agli ordini del loro capo. A 4 a 4 gli uomini avanzarono di nuovo con una bomba in mano e una pistola nell'altra mano. I primi 10 a un cenno di Monic lanciarono tutti insieme le bombe a mano e immediatamente dopo, sparando all'impazzata, si buttarono avanti con altissime grida. Gli altri li seguirono subito, sparando lateralmente come diavoli scatenati e buttando granate a destra e a sinistra. I russi, presi completamente alla sprovvista, non ebbero neppure il tempo di riaversi dalla sorpresa e dallo spavento che già il gruppo di Moric aveva oltrepassato lo schieramento ed era dileguato nella notte come un turbine di fuoco. Dopo una corsa sfrenata di circa 30 metri, Monic si fermò per raccogliere i suoi uomini inseguiti da qualche sparo isolato. Nessuno mancava all'appello. In un villaggio lontano crepitava una mitragliatrice. Doveva trovarsi appunto là il comando delle truppe bolscevica. Monic chiamò uno dei suoi uomini che conosceva bene la zona. «Devi condurci a Kuleshov. Sei sicuro di non sbagliare?» «Accidenti! Su allora, fai il battistrada!» Monic aveva scelto ad arte quella direzione per trarre in inganno il nemico circa le sue intenzioni. Voleva lasciare un ricordo in quel villaggio presidiato da due piccole unità bolscevica. In meno di un'ora di marcia notturna coprirono i 5 km di strada che li separavano da Kuleshov. Il villaggio sembrava abbandonato. Dopo breve consiglio col suo stato maggiore, Monic si avviò lungo lo stradone che tagliava di mezzo al villaggio. Giunto quasi al centro, vide un soldato rosso sullo suo letto seduto su una panca. Era la sentinella che faceva la guardia davanti alla casa dove era alloggiato il comando. Monic, con un gesto, fermò gli uomini e, prendendo con sé i primi due, si avvicinò alla sentinella che si avvide di loro solo quando tutti e tre gli si pararono davanti con le rivoltelle in pugno. Monic gli strappò di mano il fucile e gli applicò sul naso la pistola. «Se non ti puzza di vivere ancora un po', non fiatare e guidaci dal comandante». Poco dopo, tutto il comando del presidio di Kuleshov era disarmato e imbavagliato, meno un solo soldato al quale Monic fece un interrogatorio. «Chi è che comanda l'azione che si sta svolgendo contro i ribelli?» Il soldato tremava come una foglia, mentre in mutande e con le mani in alto guardava con due occhi spiritati il giovane capo dei ribelli. Finalmente balbettò un nome. Monic lo ripeté ad alta voce. Dalla fila dei prigionieri allora si fece avanti un ufficiale. Monici ordinò di precederlo nel magazzino, dove permise ai suoi di far man bassa di quanto poteva far loro comodo: denaro, armi, viveri d'ogni genere, zucchero e tabacco. Poi Monici si rivolse al magazziniere e, indicandogli il comandante del presidio, gli ordinò: su, mollagli un ceffone. Il soldato guardò incerto il suo superiore, poi Monici come se non avesse capito. Ho detto di mollargli un ceffone, ti spicci! Urlò Monici, strofinandogli la canna della rivoltella sul naso. Con gli occhi che gli schizzavano fuori dalle orbite per il terrore, il magazziniere colpì in pieno viso il proprio comandante. No, non così, più forte! L'altro, sotto la minaccia di quella canna, eseguì l'ordine con uno zelo persino eccessivo. Ah, bravo adesso! Rispondimi, intimò Monici all'ufficiale. Questi non chiedeva di meglio che vendicarsi e fu con vero sollievo che sganciò un potente manrovescio al soldato. Ma non si aspettava che Monici gli ordinasse poi di sbattersi sull'attente e, si rivolgesse di nuovo al magazziniere, ingiungendogli di ricominciare da capo, usando questa volta il pugno. Il gioco durò fra matte risate di ribelli finché i due malcapitati non grondarono sangue. Allora Monici entrò nell'ufficio e, vedendo un telegrafo da campo, fece chiamare il telefonista e gli intimò di metterlo in comunicazione col villaggio vicino, dove sapeva che era dislocata una compagnia. Poi prese egli stesso il ricevitore e chiese del comandante del distaccamento, aggiungendo di dovergli trasmettere delle comunicazioni urgentissime. Il comandante? Sì, chi parla? Qui è Kuleshov. Vi informo che Monici ha occupato il villaggio, ha disarmato il presidio, ha razziato viveri e munizioni e ha costretto il comandante del presidio e il magazziniere a rompersi a vicenda il muso. Ma chi è che parla? È Monici, proprio lui in persona, ecco la firma. E con un colpo di pistola fece saltare l'apparecchio. Poi uscì fuori, radunò gli uomini e riprese la marcia dirigendosi verso nord. C'era ancora un'ora di tempo prima che spuntasse l'alba. A un chilometro dal villaggio il reparto abbandonò la strada e, inoltrandosi nella boscaglia, scomparve nel folto senza lasciare tracce di sé. We'll be right back. Questa era Akira Kideshi con il brano Body Hammer. Ora si passa di nuovo alla controinformazione, lo facciamo con un testo pubblicato proprio stamattina. È il testo che comunque ogni mese appare sul sito di Radioazione, quindi le riflessioni, stavolta riflessioni numero 9, dal titolo Metamorfosi. Allora, si parte da lontano, lo spezzetteremo in varie parti perché è lungo, iniziamo a leggere, poi capirete. Poco dopo la metà degli anni 90 in Italia, nello specifico negli ambienti che all'epoca amavano definirsi antagonisti, a cosa non si è mai capito, inizia l'invasione lenta di internet con siti web che per la prima volta rendono più veloce lo scambio di controinformazione da un paese all'altro, distanti anche migliaia di chilometri. Essendo sempre l'Italia la nazione più tassata al mondo, avere internet in casa era un lusso. Oggi le cose non sono cambiate così tanto, solo che ai classici gestori di rete sono subentrati molti altri che hanno permesso con prezzi bassi di avere a portata di tantissimi, non proprio di tutti, internet. All'epoca, parlo sempre della seconda metà degli anni 90, ma anche quasi 2000, ricordo che per avere informazione su cosa stava accadendo in altri luoghi lontani mi recavo all'università, dove c'erano delle aule occupate, oppure in un centro di studi libertari che si trova qui in città. Questo significa che non leggevo la controinformazione tutti i giorni come accade ora di primo mattino davanti al caffè al posto del quotidiano di stampa borghese, e capitava che dopo una settimana o due i siti erano fermi e non aggiornati, forse per il semplice motivo che non c'era nulla di interessante oppure che i gestori dello stesso sito non ritenevano interessante. Ma un altro motivo molto importante, almeno ristretto a questa nazione, era che ci si muoveva spesso da una parte all'altra dello stivale, e quindi le notizie giravano allo stesso modo, non veloci come può avvenire tramite internet, ma per quelli che erano i tempi erano piuttosto veloci. Il brutto difetto, che tuttora è una carenza da parte di una gran fetta di individui e quindi anche di compagni, era quello che, ad esempio, racconto un fatto che invento ora, ad Agrigenta veniva fermato un compagno per strada, a Napoli la cosa si trasformava in una perquisizione a casa, a Roma che il compagno dopo la perquisizione era stato portato in questura, a Firenze arrestato, a Milano era stato arrestato e scarcerato. Dopo aver avuto la sua metamorfosi nella risalita da sud verso nord, la voce come una valanga tornava a rotolare verso sud. Andava bene al compagno se in tutta questa metamorfosi se ne fosse uscito bene senza pestaggi o pulito senza essere stato tacciato addirittura di delazione o infamia. Ovviamente non era sempre così, ma qualche volta è capitato. Segno che i pettegolizzi piacciono molto anche agli anarchici, che spesso ne approfittano per aggiungere un pesetto in più per far affondare il piatto della bilancia a sfavore dell'individuo preso di mira. Ma quei primi siti di controinformazioni subirono ben presto l'effetto boomerang, perché più che riportare news diventarono col passare del tempo vere discariche fatte di commenti e minacce. Era il tempo dei disobbedienti, mutazione lenta delle tute bianche, iniziavano i vertici e controvertici, iniziavano gli scontri di piazza, più che con gli sbirri tra buoni e cattivi, termine molto in voga in quel periodo, cioè tra violenti e non violenti, o forse semplicemente tra anarchici e tute bianche disobbedienti. In alcune città lo scontro con i disobbedienti, che dopo qualche anno avremmo ritrovato seduti in Parlamento come membri di partiti, diventò ben presto molto infuocato. Dai pestaggi in gruppo contro compagni singoli a sgomberi di posti occupati con l'aiuto di qualche mafioso, fino alla delazione pubblica fatta in TV e davanti agli sbirri. Questi erano i disobbedienti o tute bianche, dall'altro lato non mancarono le risposte a tali aggressioni. Questo per far capire il contesto in cui si viveva in quegli anni e per arrivare al nostro punto di partenza, che è la trasformazione dei siti web dell'epoca, come dicevo prima, in vere discariche dove continuare gli scontri di partiti in strada sotto la voce commenti. Chi non si è fatto prendere la mano all'epoca da questo merdaio? Pochi, penso. Il sottoscritto, ahimè, cadde in questa trappola, un po' forse per l'età più giovane o per l'ignoranza dell'epoca su questi nuovi mezzi di comunicazione. Sicuramente vivevo in una città dove lo scontro fisico con i disobbedienti era all'ordine del giorno, ma quando iniziarono commenti dal lato disobbediente in cui menzionavano nomi, cognomi e luoghi di residenza, capii lo schifo ed evitai di accendere un qualsiasi computer anche solo per controllare la posta elettronica almeno per un anno. Questa è la prima parte del testo che potete trovare anche sul sito di Radiazione. Ora ci ascoltiamo un brano, lui è Pig con il brano Content, e poi dopo una lettura, la nuova lettura di Nessuno ci salva di Sergio Spiaceschi, per poi tornare sul testo di Radiazione. Decise di cambiare zona di operazione e di spostarsi verso Minsk. Tra i suoi uomini ce n'erano parecchi di Minsk ed egli stesso conosceva bene la città. Avrebbe dovuto agire in condizioni favorevoli. Era anche informato che le forze regolari polacche stavano avanzando dall'ovest, puntando nella stessa direzione, e che nel sud infuriava la guerra civile. Tutti erano in attesa di avvenimenti decisivi. Con una marcia a tappe forzate raggiunse in pochi giorni i dintorni di Minsk, senza attaccare nessuno, spostandosi preferibilmente di notte e cercando di non apparire mai in forza. L'appoggio dei contadini garantiva la sicurezza anche dei piccoli nuclei isolati e di pochi uomini. Monich aveva a Minsk un amico col quale si teneva in contatto. Erano nati nello stesso villaggio e la loro amicizia risaliva agli anni della gioventù. Si chiamava Viktor Umiensky e altri non era che il meccanico che un tempo era stato uno dei tre maestri di Jan. A quell'epoca però Viktor era, come Svoboda, un ardente seguace dei comunisti e che egli esaltava come puri campioni della libertà e della causa del popolo. Quando i bolscevichi occuparono Minsk, Viktor si iscrisse subito al partito e si mise a disposizione dei nuovi padroni che lo fecero commissario della stazione elettrica dove egli lavorava. Ma appena Umiensky si accorse dello stridente contrasto che esisteva tra gli slogan dei bolscevichi e la loro vera attività, si staccò disgustato da loro e, un po' alla volta, finì per diventare un acerrimo nemico del comunismo. Non potendo dichiarare apertamente il suo voltafaccia, si tenne nell'ombra, sabotando quando poteva e aspettando che si presentasse l'occasione favorevole per far saltare alla gola dei liberatori del proletariato. Monich riuscì ad avere un abboccamento con lui in una taverna della periferia. Viktor gli comunicò la sua intenzione di far saltare in aria la stazione elettrica e di andare poi a raggiungerlo nei boschi, ma Monich, più avveduto dell'amico, lo sconsigliò. Potresti essere di maggiore aiuto alla nostra causa rimanendo al tuo posto. La gente di fegato si è data tutta la macchia, mentre a Minsk tutti hanno paura e non sanno più reagire. Bisogna invece creare un fronte interno e unire i nostri sforzi. Allora vedrai che si farà sul serio qualcosa di buono. Io sono in contatto con molti gruppi di ribelli e ho ai miei ordini degli uomini a tutta prova. Mi manca invece un informatore fidato sulla situazione di Minsk. Se terrai gli occhi ben aperti e ci terrai informati di tutto, saboterai queste canaglie molto più che non distruggendo una stazione elettrica. Da quel convegno erano passati alcuni mesi, durante i quali la banda di Monich aveva dato parecchio filo da torcere al comando della guarnigione di Minsk, aiutato dalla popolazione della zona che odiava i rossi da quando questi avevano instaurato il regime di terrore. Ogni tanto qualche commissario spariva misteriosamente, spedito al creatore dagli uomini di Monich, sempre inafferrabili, quasi fossero dei fantasmi. Apparentemente tutto era in ordine nella casa del numero 157 di via Zakharievska, Baran. Si sentiva al sicuro in mezzo al caos che regnava in città. La sua fuga aveva interessato fino a certo punto la polizia. Egli si vedeva quindi spesso con Jan. Tra i due alloggi avevano praticato un passaggio segreto dietro la stufa per poter avere una via di scampo nel caso che uno dei due ricevesse improvvisamente qualche visita, sicuramente non troppo gradita. Down, backwards, down, sideways. Down, backwards. Without regards, with place my thought, without requires. now. Allora, questi erano Dr. Doomsday con il brano Tambi. Ora si ritorna al testo pubblicato stamattina sul sito di Radiazione, a firma di Radiazione. Allora, ho preferito raccontare la mia storia, ma potrebbe essere quella di molti compagni dell'epoca. Non c'è nulla da vergognarsi e, come al solito, non ho alcun rimorso perché in quel momento volevo fare quello che ho fatto. Era il mio istinto a cui non ho mai messo ostacoli. Giusto o errato non è una domanda che mi sono posto in tutti questi anni, perché non è, ho mai sentito e tuttora non ne sento il bisogno, ma di sicuro sono cosciente che, del fatto che ha fatto parte del mio percorso di crescita, delle mie idee e convinzioni. Giusto o errato o errate non sono un mio problema, ma è quello di chi me le accosta con questi due termini. Ma ritorniamo all'argomento di cui prima. Dopo il 2001, e quindi parlo del periodo di guerra tra anarchici e disobbedienti, essendo l'anno dove lo scontro di piazza in Italia tornò ad alzare l'asticella contro l'Ocse a Napoli a marzo e il G8 di Genova a luglio, qualcuno sentì bisogno di creare i primi siti web anarchici, che però ben presto iniziarono a morire lentamente. Ogni tanto ne nasceva uno, ma durava poco. Ricordo all'epoca molte lamentele, anche di molti che oggi criticano la controinformazione via web, sul fatto che non ci fosse un sito anarchico che durasse nel tempo. Era stato scoperto il giocattolo ed era affascinante essere sempre aggiornato su cosa accadesse ai compagni in paesi lontani. Intanto internet entrava sempre con più invadenza nelle nostre vite e in molte case iniziarono a fare la loro presenza il PC e internet. Si voleva essere aggiornati ed avevamo da ridire sui siti web dell'epoca che non aggiornavano frequentemente, come a pretendere che questi dovessero inventare le cose perché erano a servizio del movimento. Però nessuno si prendeva la briga di costruirne uno da sé e di farlo come lo desiderava. Perché? Perché era bene lamentarsi, ma mai avere a che fare con l'oggetto del peccato tecnologia, perché questa da un certo periodo in poi è iniziata ad essere una problematica molto fondamentale nelle nostre vite e argomento che sta molto a cuore agli anarchici. Ma intanto le nostre tasche, oltre a qualche moneta, accendino, agendina o la penna, iniziavano a riempirsi di una scatoletta di plastica con tanto di tastiera e antenna lunga quanto una canna da pesca con cui telefonare. Però con internet nessuno ci voleva a che fare. Le notizie dai siti si controllavano, si riportavano sui propri giornali in carta, iniziavano ad aprirsi account di posta elettronica e quella scatola di plastica per telefonare si assottigliava sempre di più nel tempo, così nelle tasche ci entrava meglio. Ma internet no, è il male. E su questo sono d'accordo, ma in tutto ciò vi ho sempre trovato una contraddizione. Telefonare non usa l'alfabeto Morse, tantomeno il telegrafo senza fili di Marconi. Per telefonare, un telefono cellulare fa una trasmissione di dati identica a quella che fanno molti servizi di telefonia VoIP gratuiti come Skype, Viber o altri ancora. Per dirla semplicemente, se parli a telefono è come se stessi scrivendo in una chat, ma lo fai con la tua voce. Quindi se parli a telefono cellulare è come se navigassi su internet. E allora internet sì o no? Ni, no e sì. Certo che potrebbe essere una risposta questa, e sicuramente è anche la risposta di quanti non vogliono far vedere che hanno messo le mani nella merda per la difesa della propria dignità. C'è ancora chi crede che un giorno si possa vivere tutti nella capanna dello zio Tom, ma penso che nemmeno i migliori o peggiori, dipende dal punto di vista filosofi di questo pensiero, ci credono veramente, e la dimostrazione è data dal fatto che si muovono continuamente da un continente all'altro con tanto di aereo e tanto di telecamera sempre a portata di mano per filmare anche le pietre. Forse lo faranno per avere un archivio storico di come erano le pietre all'età della civilizzazione. Tanti discorsi contro le tecnologie vanno bene e dovremmo sempre approfondirle, ma se questa cazzo di tecnologia non iniziamo a distruggerla, di cosa vogliamo parlare? Odio sentirmi riempire le orecchie della solita cazzata che ascolto e anche leggo da qualche anno, che all'alternativa ai siti e blog dovrebbe essere la carta, perché crea dibattiti e si sottrae molto di più al controllo. Questa era la seconda parte del testo di Radiazione. Ora ci ascoltiamo un altro brano, quello degli Anterat, Headshot, e poi dopo si torna qui con la nuova lettura di Nessuno ci salva e poi ancora il testo di Radiazione. Gentlemen. Al mattino, quando usciva per recarsi in negozio, Pavka Paulinka chiudeva la porta a chiave lasciando aperte le imposte di una sola finestra, velata dall'interno con una tendina perché entrasse la luce. Così rimaneva barando una sola possibilità di fuga, appunto, attraverso l'apertura che conduceva nell'alloggio di Jan. Nastka gli preparava da mangiare. Oleg cercò di alterare i suoi connotati. Si rasò i baffi che si era lasciati crescere in carcere, cambiò pettinatura e si vestì in modo diverso da prima. Non calzò più gli stivali e acquistò un abito fatto dal taglio molto, ma molto borghese. Si sforzò persino di dare al suo passo un'andatura diversa. Nel portafoglio teneva sempre documenti personali e la carta d'identità di un tale trovato ucciso alla periferia a cui Rana li aveva sottratti. Si sentiva, insomma, abbastanza sicuro. Ogni tanto prendeva parte a qualche impresa organizzata dai suoi amici e il denaro ricavato lo dava quasi tutto a Pavka Paulinka, che si affrettava a comprare dell'oro. Un giorno le consegnò perfino le due famose monete zariste che avevano fatto passare a Pavka tante notti insonni, ma non le rivelò dove erano state nascoste per tanto tempo. Aveva sempre l'intenzione di abbandonare Minsk appena gli fosse stato possibile e di andare a stabilirsi a Vilnius per ricominciare finalmente una nuova vita. Sapeva che Pavka era contraria e infatti esitò a lungo prima di parlargliene, ma una mattina si decise e accennò al suo progetto di andare a vivere insieme in un'altra città e Pavka lo guardò sbalordito. «E dove andremo di grazia?» «A Vilnius, per esempio. Ci si starebbe meglio di qui, sai? Un po' di denaro lo abbiamo, penserei io a non farti mancare nulla. E il mio negozio? Beh, lo vendiamo e col ricavato ne apriresti un altro più grande a Vilnius». Ma il solo pensiero di lasciare Costantino Samenta riusciva insopportabile a Pavka. Vero è che la gente la trattava piuttosto male, ma a questo punto l'amore che le piaceva, mentre quello del calzolaio così umile e sottomessa, non aveva altro effetto che di irritarla. E quindi scosse il capo e disse decisa: «Puoi star certo che io da qui non mi muoverò. Pensi solo a te stesso, tu, vecchiaccio. Vuoi andartene perché hai paura che ti riacciuffino? A me piace vivere bene, qui guadagno e non vedo veramente alcuna ragione per affrontare una situazione così incerta. No, no, no, sarei proprio una scema se ti seguissi nei tuoi vagambondaggi. Io non ho paura di niente, se mi preoccupo è solo per te. Non vedi che succede a Minsk un giorno o l'altro? Potresti avere anche tu dei guai. Guarda quanti negozi sono stati requisiti e dei loro proprietari non si è saputo più nulla. Se ho paura, io, Paulinka, è solo per te e per quello che ti potrebbe accadere». Ma Pavka si considerava al sicuro sotto la protezione di Samenta, che poteva, secondo quanto egli stesso le aveva detto più volte, arrestare chiunque egli volesse. «Ho qui mio padre, una sorella, un fratello», disse in modo petulante, «e non me ne andrò da qui neanche a morire. Se vuoi andare, tu vacci, vacci pure. Non ti tengo mica con la catena, sai». Baran la guardò in silenzio negli occhi, colpito assai dal tono astioso con cui gli parlava. Pavka si vestì in fretta, prese le chiavi del negozio e ne uscì fuori. Baran rimase a lungo immobile, poi si alzò e incominciò a camminare su e giù per la stanza come se fosse nella cella di una prigione, dalla stufa alla porta, dalla porta alla stufa, avanti e indietro. Non si accorgeva neppure di fare un dietro fronte da vecchio carcerato, era troppo assorbito dai suoi pensieri. E dopo un po' si fermò davanti alla toiletta di Pavka. C'era uno specchio, qualche boccetta, una spazzola, un pettine di corno. Prese quest'ultimo in mano meccanicamente, quasi senza accorgersene. Tra i denti era impigliata una piccola ciocca di capelli biondi. La guardò a lungo, teneramente, col cuore che gli doleva. «Così non va, Paulinka», mormorò, e senza volerlo accostò le labbra a quei sottili fili dorati, rimise il pettine al suo posto, poi lo riprese ancora, ne tolse i capelli e li avvolse accuratamente in un pezzetto di carta, poi si mise l'involtino nella tasca del panciotto. Così non va, Paulink, ripeté. Uscì, andò da Kasik, che ora abitava da Kashka Tromba d'Oro. Caro, il cane, era rimasto da lui perché Baran non aveva voluto portarlo a casa, sapendo dell'odio del resto ricambiato che Pavga nutriva per il bastardo. Era meglio che quei due esseri, la donna e il cane, stessero lontano l'uno dall'altro. Caro aveva una cuccia sotto la scala. Era ingrassato e il suo pelo non era mai stato così lucido. La bestiola faceva sempre molta festa al suo padrone. Ogni volta che lo vedeva comparire, Oleg se lo prendeva in braccio, lo accarezzava e gli parlava come se Caro avesse potuto comprenderlo. Gli veniva spontaneo di confidarsi con lui come col suo più fedele amico. Cagnolino mio, è cattiva Pavka, molto cattiva. Non mi vuole neanche un filo di bene, anzi... È inutile, sì, è inutile proprio sognare di vivere tutti e tre insieme. Che cos'è che dobbiamo fare adesso? Caro sembrava capire qualcosa, tanto il suo sguardo era angosciato, mugolava pietosamente, il suo cuore batteva con ritmo accelerato mentre leccava le mani del padrone per dimostrargli che almeno lui gli era molto attaccato. Di, esclamò Kasik, non sei mica diventato matto per caso? Che era appena entrato nella stanza e aveva sorpreso l'amico a parlare col suo cane. Ascolta, piuttosto ho un progetto che forse può interessare anche te. Ho deciso di svignarmela a Vilnius. Qui a Minsk tira un'aria pesante che non mi va più giù, si rischia troppo a lavorare. Che cos'è? Che ne pensi tu? Ma Baran taceva. E se venissi anche tu, è sempre meglio essere in due. Io ho idea che qui un giorno o l'altro va a finire male se non tagliamo la corda. Qualcuno di noi ha le calcagna a mezza dozzina di agenti e non voglio dare a quei porci la soddisfazione di portarmi alla Komarovka. Baran lo ascoltava in silenzio. Era un pezzo che non sognava altro di partire. Sapeva che era una pazzia ostinarsi a rimanere a Minsk e per questo aveva cercato di convincere Pavka a seguirlo a Vilnius. Ciò che ora diceva Kasik non faceva che confermarlo nel suo proposito, ma... E Pavka? L'accoglienza che gli aveva fatto la prima sera quando era uscito di galera lo aveva illuso che avrebbero potuto essere felici assieme, che Pavka lo amasse davvero come egli amava lei con tutte le sue forze, ma ora doveva francamente riconoscere, benché con infinita amarezza, che era stata un'ignobile commedia ispirata dalla paura o dall'interesse o da tutte e due le cose assieme. Kasik, credendo che riflettesse sulla sua proposta, interruppe bruscamente il corso dei suoi pensieri. Beh, vecchio mio, ti decidi allora? Ma sì. E allora ce la filiamo? Ma sì, così sarà meglio. Ah, maledizione. Finalmente adesso sì che ragioni. Dai qui la zampa. Ma Baran, era costata troppo quella decisione. Senti, mi cade della vodka in casa. Diavolo! E allora, dammene un po' per piacere. Ingoiò alcuni bicchieri, uno dopo l'altro, quasi avesse fretta di ubriacarsi per non più pensare. Kasik, intanto, gli esponeva i suoi piani circa la loro futura sistemazione a Vilnius. Baran lo ascoltava senza seguirlo. Ma quando sentì che aveva intenzione di lasciare Minsk quella sera stessa, si affrettò a dichiarare che era della stessa idea. Meglio non aver troppo tempo per riflettere. E allora guardò l'ora. Erano le 11. Pavka non sarebbe tornata a casa prima delle 7 di sera. Si alzò e prese congedo dall'amico. Siamo d'accordo allora. Ci vediamo alle 9. E porteremo Caro con noi. Il bastardo, come se avesse capito, gli afferrò coi denti la mano, però lo fece delicatamente. Ready? One, two. Pretend to be questo era Enin Elias con il brano Get It Back. Ora si ritorna al testo di controinformazione. Ogni volta che sento queste parole farei uno sciopero della fame per chiedere l'immunità. Mi riferisco al fatto che molti dicono che l'alternativa ai blog e ai siti dovrebbe essere la carta, perché crea dibattiti e si sottrae molto di più al controllo. Sto scherzando, non la prendiamo sul serio. Non devo ricordare che questi dibattiti non ci sono e che molti che portano o in passato hanno portato avanti i giornali anarchici su carta hanno passato la loro dose di guai repressivi. Poi anche a me capita spesso di creare dibattiti per i miei punti di vista o riflessioni, che sono spesso scarsi, ma il dibattito non deve essere per forza pacifico. Ma ora non perdiamo di vista il discorso principale, il rapporto con la tecnologia. Lo riprendo con una domanda. Ma più che altro, io voglio che la tecnologia sparisce? Onestamente a questa domanda non so più dare una risposta, e non perché sia diventato un assuefatto tecnologico, ma perché dovrei rinunciare a qualcos'altro oltre a questo sito. Fare musica, ad esempio, perché la mia vita è fatta giustamente anche di piaceri e non mi piacerebbe suonare come gli indigeni sui tronchi degli alberi perché ho altri gusti. Si vivrebbe meglio nel mondo se solo gli anarchici non utilizzassero la tecnologia? Penso sia una cazzata questa, no? Siamo in grado di distruggere Echelon per evitare il controllo sulle nostre vite? Questa non è una cazzata, ma è un sogno non tanto distante da quello di fare un'insurrezione in Occidente. Non siamo mai riusciti nemmeno a provocare un accenno di rivolta in un paesino di 100 abitanti, allora come possiamo pensare di distruggere una tale mostruosità? Ognuno di noi pensa si faccia queste domande, anche se poi lo nasconde per pericolo di caduta di credibilità, fierezza e durezza. C'è qualcuno come oggi che fa meno di tutta la tecnologia che ci invade? Non ci credo nemmeno se lo vedo con i miei occhi. Con questo non dico che bisogna arrendersi alla tecnologia, ma purtroppo di conviverci senza farsi assuefare e senza vivere detenuti nelle proprie paranoie. È contraddittorio con il mio pensiero e lo so, ma io amo le mie contraddizioni. Quanti vogliono bruciare le banche e allo stesso momento si aprono un conto corrente? L'ottusità del non riconoscere tutto ciò sarebbe come dire siamo contro lo Stato, ma intanto nello Stato ci viviamo, ci lavoriamo, gli paghiamo le tasse e ne subiamo l'ira quando lo mettiamo in discussione con le nostre idee. C'è qualcuno che si definisce anti-autoritario, che non abbia mai pagato una bolletta, lavorato semplicemente, andato a fare la carta d'identità in comune o il passaporto in questura? Non ci prendiamo in giro, nuocerebbe solo a noi stessi. Chi vive nelle comuni o negli squat non si sottrae a tutto questo. I comunardi o gli squatters possono anche non pagare l'elettricità, l'acqua e l'affitto, ma si prendono in giro pensando di aver creato l'isola felice e non che sono diventati per le autorità un recinto dove far distrarre gli animali. Allora è bene farsi certe domande e anche autocritica, perché al contrario di ciò che pensano in tanti, questo serve alla crescita di ognuno di noi. Siamo onesti almeno con noi stessi, senza pensare di avere ognuno la verità in tasca, perché in questo modo ne avremo sì piene le tasche, ma di stronzate. Bene, allora, essere sempre informati sulla nuova tecnologia, utilizzarla senza eccessi, ma allo stesso tempo attaccarla. Non attaccarla a parole, non possiamo distruggere un ripetitore con le urla o la critica, ma con le azioni, perché solo queste arrecano danni reali, anche se sono limitate ad essere unicamente il nostro conto da presentare a chi ci avvelena la vita. Sono unicamente soddisfazioni individuali di chi le ha realizzate e non di tutto un movimento. Sono il poter pensare vaffanculo, almeno un segno del mio passaggio su questa cazzo di terra, a quei pezzi di merda che mi avvelenano la vita ogni giorno, l'ho lasciato e ne potrò lasciare ancora. Le azioni non fanno un'insurrezione, ma possono essere, oltre il danno recato alla struttura o persona di turno, un modo per far capire che oltre alle lacrime esistono metodi e mezzi più dignitosi, un invito a far capire che non è poi così tanto difficilissimo reagire con la rabbia adeguata. E questa era la terza parte del testo di Radiazione. Ora ci ascoltiamo ancora un altro brano. Loro sono Eterni Teenage Riot con il brano Black Flags, e poi dopo si ritorna qui ancora con la lettura di Nessuno ci salva di Sergio Spiasecki, per poi ritornare ancora al testo di Radiazione. abuses of government and corporate power, lawless and unrestrained. That's what we should talk about. Corporations exploit the power of the state to further enhance their power, and the real criminals get away. Are you ready to testify? Are you ready to testify? Black flags! Are you ready to testify? You got 2 seconds! Are you ready to testify? Come on! What they call law is used to restrain us ordinary citizens who are opposed to this. Your cyber attacks are crimes. If the government dislikes you, but are perfectly okay if they unleash them. They pursue a whistleblower. Why criminal politicians get away? Do you want it all? Do you want it all? Do you want it all? Do you want it all? Are you ready to testify? Are you ready to testify? Black flags! Are you ready to testify? You got 2 seconds! Are you ready to testify? Come on! Try to threaten the system. You have the full weight of law come crashing down upon you, so you don't resist. Surveillance, goons, force us to be silent. They kill the careers of journalists, so no one can resist. Are you ready to testify? Are you ready to testify? Black flags! Are you ready to testify? You got 10 seconds! Are you ready to testify? Class war going on, and it's the rich who are waging it. They try to destroy anyone who's a threat to their power, playing for keeps. They want it all. Do you want it all? Are you ready to testify? Are you ready to testify? Are you ready to testify? You got 2 seconds! Are you ready to testify? Quel mattino Paolinka arrivò trafelata al negozio. Tremando di stizza aprì la porta e le finestre, continuando a pensare alla sfacciataggine di quel calzolaio che pretendeva di farle piantar lì tutto, casa, negozio. Costantino, soprattutto Costantino Samento, per andare dietro a lui. Ma quello è un pazzo, un pazzo! Esclamò quasi ad alta voce mentre riordinava nervosamente il locale. Non si sarebbe mai liberata di lui. L'avrebbe perseguitata per tutta la vita con il suo barbosissimo amore che la esasperava. Se lo sarebbe sempre trovato tra i piedi proprio quando era sul punto di raggiungere la felicità con Samento. Non le passa neppure per la mente che sarebbero bastate poche parole sincere perché Baran le si togliesse dai piedi per sempre, anche se questo avesse dovuto distruggere in lui ogni fiducia nella vita. Il tenace attaccamento di Oleg la soffocava, suscitando in lei un senso di ribellione. La sua mente meschina non era in grado di concepire un amore che non fosse interessato ed egoistico. Era troppo piena di sé, troppo venale calcolatrice per poter apprezzare l'affetto profondo che Baran nutriva per lei. Per lei l'amore era una soddisfazione dei sensi, un assoggettarsi della donna a un uomo che sapesse imporsi con la sua brutalità di maschio. Il sentimento, così vivo in Baran, era una cosa che Pavka semplicemente ignorava. Doveva farla finita col calzolaio. Oleg era un ostacolo sulla sua strada e Pavka era decisa a toglierlo di mezzo a qualunque costo, anche a costo di commettere un'azione vile. Gli affari quel giorno andarono male. Come se ciò non bastasse, Pavka si sbagliò più volte a suo danno nel dare il resto. Continuava a paragonare mentalmente Sament a Baran, sempre a scapito di quest'ultimo. Dopo il ritorno di Oleg, aveva visto una sola volta Costantino a Sament. 3 giorni dopo il convegno fissato, aveva approfittato del fatto che Baran l'aveva avvertita che non sarebbe tornato a casa a dormire, dovendo passare fuori la notte con i suoi amici per un certo lavoro. E allora Pavka era andata direttamente a casa dell'agente, ma questi mica era in casa. E Pavka aveva dovuto aspettarlo per più di un'ora. Quando finalmente l'aveva visto entrare, gli aveva buttato le braccia al collo supplicandolo di scusarla se per 3 giorni era mancata all'appuntamento. Sono venuti ad avvisarmi che mio padre stava poco bene, così ho dovuto andare da lui. Sament aveva accolto con indifferenza la scusa. A dir la verità, neppure lui era andato all'appuntamento, ma non aveva creduto il caso di confessarlo, dato che Pavka l'aveva prevenuto. Come sempre, quella sua aria svogliata e indifferente aveva agito da eccitante su Pavka. Sapendo di far cosa grata all'amante, aveva tirato fuori dalla borsetta un plico di banconote che Oleg gli aveva consegnato poco prima e gliel'aveva fatto scivolare in tasca. Tieni tesoro, una sciocchezza, ma mi fa piacere sapere che potrà servirti a qualcosa. Sament non l'aveva neppure ringraziata, ma aveva sopportato con maggior pazienza i suoi sbaciucchiamenti e i suoi isterici slanci di tenerezza. E prima di lasciarlo, Pavka gli aveva detto: io non lo so, amore, quando potrò tornare da te. Speriamo che mio padre stia meglio un po' presto. Senti, tu la mia mancanza la senti davvero molto? Davvero non troppo, rispose quello. E io invece sono così infelice quando ti sono lontana. Beh, allora arrivederci, cocco mio. E questi erano Cosmic Cooler Radiators con il brano Earth Machine. Ora si ritorna sul testo di radiazione. In tutta questa confusione tecnologica e antitecnologica hanno fatto ingresso nelle vite di tanti i cosiddetti social network, luoghi virtuali dove annichilire le menti definitivamente e che paralizzano le persone nelle proprie case o davanti ai computer o smartphone. E non popolare più le piazze che una volta erano bombe ad orologeria contro le autorità. Purtroppo anche gli anarchici si sono fatti ingolosire da questa droga del nuovo millennio, riversandone gli effetti collaterali su siti e blog divenuti luoghi virtuali di azzeramento dell'anarchismo e appiattimento delle idee. A posto del cancelletto di un social forum, ad ogni avvenimento repressivo si crea un sito o un blog specializzato su quell'evento. La cosa ancora più raccapricciante è che a crearli sono le persone che curano uno o più siti o blog. Questa assurdità ha un solo nome, assuefazione. Un delirio, un caos che purtroppo non è il caos che gli ignoranti pensano come significato dell'anarchia. In tutto questo caos di lingue che si mescolano è iniziato la metamorfosi anche dell'anarchismo. Allora, su alcuni siti web puoi leggere dalle proposte insurrezionali alle teorie maoiste, marxiste e leniniste, apprezzamenti per le lotte di alcuni gruppi armati degli anni 70 che, se all'epoca avessero avuto il tempo, avrebbero fatto fuori anche gli anarchici dopo i nemici statali, fino al punto di non farsi alcun problema a pubblicare testi aperti con citazione di qualche mafioso. L'importante è che tutti questi soggetti abbiano impugnato le armi. Poi chi se ne frega se lo hanno fatto per delle idee che contrastano totalmente con l'anarchia o per una lotta di potere come quella intestina agli stati nei casi di mafia. Si spara, va bene, tutti i compagni, ma chi se ne frega? Si è arrivati al punto di pubblicare senza nemmeno chiedersi che cazzo stiamo facendo testi di rivendicativi di cellule della Federazione Anarchica Informale dedicata ad una maoista o un patriota cileno. Per non parlare degli stessi che si firmano in tali modi, per me questa gente ha dei problemi seri e lo dico prendendomi tutte le mie responsabilità, altro che la malattia mentale non esiste, esiste come se si accosta il binomio anarchica informale a Urliche Meinhof, perché poi Renato Curcio rispetto a lei era un libertario. E ancora il rilancio di progetti di azione come puntate di una serie televisiva con tanto di numerino accanto, senza voler con questo sminuire l'azione incompiuta. Se domani mi sveglio e pubblico un testo falso di un'azione che non c'è mai stata e firmo come progetto pane e peperoni, tanto per dirne una, quando scommettiamo che nel giro di poco tempo questa sigla non venga rilanciata in altre azioni sparse per il mondo? Questo è un delirio, è l'ennesimo cancelletto da rilanciare a più riprese. Gli scioperi della fame in Grecia per l'abolizione di legge eccetera eccetera sono l'ultimo delirio su cui, per puro perbenismo anarchico, non si è scritto che quella non è una lotta anarchica. Con la gioia di tutti gli scioperanti, il governo ha deciso di discutere sulle leggi di cui tanti nichilisti hanno chiesto l'abolizione. Ora saranno tutti felici per la vittoria ottenuta dagli scioperanti a chi li ha sostenuti in questo gioco politico. Complimenti. Da domani torneranno di nuovo ad essere tutti nichilisti che non riconoscono nessuna autorità. Da domani ci saranno nuove leggi e forse le carceri saranno quelle di prima. Sarete più felici? Ma i deliri continuano e l'anarchismo su web piange e si trasforma sempre di più. Altro esempio, e questo non è una pecca che appartiene solo al web ma anche nelle teste di molti compagni, è l'utilizzo del termine prigioniero politico, può essere riconosciuto come tale. Il testo in riguardo di Fanon e Amelia, all'epoca detenuto in Messico, lo adoro e condivido quasi del tutto quello dei compagni francesi di Desruin, quindi non aggiungo altro. Ma se pensate che i deliri sono finiti, vi sbagliate di grosso, perché c'è anche l'utilizzo di termini come anarchici antifascisti, compagni come termine esteso anche a chi ha tra i suoi idoli i massacratori di marinai di Crossat e di Spagna 36, unità e tante altre cose che sentivo dire fino ai 20 anni negli ambienti comunisti. Tutto ciò che ho elencato finora e come l'ho scritto può sembrare una provocazione, anche se non capisco se sono un provocatore o un provocato. questa non è solo una critica, ma anche un'autocritica, perché anche Radiazione ha dato spazio a molte di queste cose, però a differenza di tanti altri lo ha sempre fatto inserendo una nota. Ho sempre avuto e ne sento ancora l'esigenza di aggiungerla, perché il mio sito deve essere lo specchio di come la penso e non un contenitore insignificante su cui pubblicare qualsiasi cosa per poi prenderne le distanze dicendo che è stata pubblicata solo per informare. Video ne lanza. Ogni mese cerco di tirare su due righe mie e non limitarmi al traduci, copia e incolla, perché sento la necessità di dire la mia dopo aver tradotto anche qualche delirio. Questa era l'ennesima parte del testo di Radiazione. Ora ci ascoltiamo un altro brano. Loro sono Mental and Fixer con il brano Cerebral Stalk Overdose, e poi dopo si ritorna qui con una lettura, una nuova lettura di Nessuno ci salva di Sergio Piasecki. E ora, mentre tornava a casa, un pensiero si fece strada nella sua testa. Perché non rivelare alla fine a Costantino Samento che il suo ex amante era ritornato e per di più la molestava continuamente, minacciando di portarla via con la forza da Minsk? Certo, non gli avrebbe detto che era un ladro, ma si sarebbe lagnato del suo cattivo carattere di tiranno e di sfruttatore. Samantha doveva pur volerle un po' di bene, anche se la trattava con alterigia. In fin dei conti, doveva riconoscere che era un vero signore, Samantha, e che non poteva non vedere in lei una misera borghesuccia. Questa saggia considerazione accrebbe ancora di più il suo delirio di accattivarsi quell'uomo e che sentiva tanto superiore a sé, e poiché il mezzo più sicuro per giungere al suo cuore era il denaro, Pavka ritornò in negozio e prese dal cassetto segreto alcuni biglietti di grosso taglio. A questi ne avrebbe aggiunti anche altri che aveva in casa. Se avesse trovato Barani, avrebbe detto che suo padre non stava bene e che sarebbe andata da lui a passare la notte. Quanti padri! Ma Oleg Baran, per sua fortuna, era ancora fuori e Pavka non ebbe a dire altre bugie. Indossò il suo vestito migliore e rimase a lungo davanti allo specchio ad acconciarsi i capelli con lo stesso pettine che Baran poco prima aveva tenuto in mano con tanta tenerezza. Samantha non era in casa sua, ma Pavka decise per stavolta di contravvenire al suo divieto e si recò da lui in ufficio. Tuttavia, quando fu là, dietro la porta, non osò entrare e attese nel corridoio finché non lo vide uscire, e allora gli corse incontro e, con sua sorpresa, vide che le sorrideva con benevolenza. «Hai fatto molto bene a venire», le disse Samento, prendendole la mano. «Dovrei pregarti, giusto di un sapore, favore. Andiamo là in fondo perché c'è meno gente che ci ascolta». Appena si furono sottratti alla vista delle persone che andavano e venivano nel corridoio sul quale davano le porte dei vari uffici, Pavka tirò fuori il denaro e lo ficcò in tasca all'amante. Era di questo che egli voleva pregarla, perché la sera prima aveva perduto tutto ciò che aveva, giocando a poker, ma veramente tutto ciò che aveva, fino all'ultimo centesimo. Sorrise dunque e si rivolse a Pavka con insolita cortesia. Pavka, allora, incoraggiata, si mise a parlargli concitatamente. «Costantino, tesoro, dovresti uscire con me 5 minuti, perché io ho qualcosa di molto importante da dirti». Ma Samantha, da bravo bolscevico agente, si era tolto dallo stomaco il peso delle preoccupazioni finanziarie che lo tenevano in ansia dalla sera precedente, e quindi si mostrò insolitamente arrendevole e uscì subito con Pavka, addirittura offrendole il braccio. Quando furono in strada, Pavka, imbrogliandosi a ogni frase, incominciò a raccontargli la storia, molto romanzata però, dei suoi rapporti con Baran. Si infervorava sempre più, perdeva il filo, inventava episodi che dovevano mettere in luce la parte di vittima che aveva dovuto fare, accusava Baran di colpe immaginarie e giustificava il suo legame con lui, coi suoi obblighi di figlia verso il vecchio padre ammalato. E a un certo punto le sfuggì perfino il nome di Jan, che del resto odiava, per la sua devota amicizia con il calzolaio. Samantha, l'agente, che dapprima ascoltava con scarso interesse tutta quella storia, a questo punto drizzò le orecchie. Il nome di Baran, che gli sembrava vagamente di aver sentito, non ricordava più dove. Ora si collegava con quello di Natsevich, di cui Samantha si ricordava benissimo. E appena Paolinka ricominciò le sue lamentele dicendo che il suo ex amante dormiva con la rivoltella sotto il cuscino, cosa che la riempiva di spavento e non le permetteva di riposare in pace dopo una giornata di onesto lavoro, allora la gente s'amenta. Comprese che si trattava del noto delinquente fuggito qualche giorno prima dal lazzaretto che la polizia stava ricercando in tutta Minsk. Ma soprattutto, comprese di avere in mano un'ottima occasione per mostrare le sue capacità di detective e per ottenere il tanto sospirato avanzamento di carriera, disse dunque a Pavka di seguirlo nel suo ufficio. Fingendosi indignato per i soprusi che le angherie che la ragazza aveva subito, esplose: «Non posso tollerare più che quel farabutto ti tratti così! Dopotutto, sei la mia amante e un giorno forse potresti essere perfino mia moglie!» Sapeva che questo era il sogno segreto di Pavka. Quando furono nel suo ufficio, la pregò di attendere un momento e andò a riferire tutto al direttore. «Ai, ai, ai!» Questi fece subito chiamare Pav, che la ricevette con cortesia e la fece accomodare in una poltrona, poi in presenza di Samantha. La sottopose ad un minuzioso interrogatorio e la dipinse a colori foschi la figura di Baran, quale era nota alla polizia, ma infine concluse: «E adesso, signorina, si renderà conto anche lei che l'uomo con cui convive è uno dei più pericolosi delinquenti che oggi siano a piede libero. Mi meraviglio che non le abbia fatto qualche brutto tiro finora. Ha fatto dunque benissimo a venire da noi, anche perché se l'avessimo scoperto noi, lei avrebbe dovuto rispondere della grave accusa di complicità. Ma io non sapevo nulla. Credevo che fosse un calzolaio. Appena mi sono accorta della rivoltella, sono subito venuta.» «Bene, bene, bene, non dubitiamo mica della sua innocenza, della sua buona fede. Ma queste saranno pienamente comprovate soltanto dallo zelo che dimostrerà nell'aiutarci ad acciuffarlo. Spero che lei non avrà scrupoli verso un simile malvivente.» «Oh, ma affatto. Che scrupoli dovrei avere? E allora vedrà che tutto... che tutto poi si rimetterà al proprio posto.» Raccomandò a Pavka di mostrarsi per quel giorno molto affettuosa con l'amante e di cercare di sottrargli la rivoltella quando egli si fosse addormentato. Verso le 5 del mattino si sarebbe alzata e avrebbe aperto la porta di casa usando tutte le precauzioni perché Baran non si svegliasse. Poi sarebbe ritornata a letto e al resto ci avrebbe pensato la polizia. Pavka Paolinka assicurò che così avrebbe fatto. Era fiera di essere stata intrattenuta a colloqui e trattata con ogni riguardo come una vera signora. Finalmente il commissario si degnò persino di accompagnarla sino alla porta, la salutò cortesemente, rivoltosi a Samantha lo incaricò di organizzare con i suoi colleghi la cattura di Baran Jan Natsevich. Samantha, tutto soddisfatto, uscì con Pavka e l'accompagnò fino al negozio, non cessando un istante di darle istruzioni e consigli. Per ultimo le suggerì di ubriacare Baran. Così la faccenda sarebbe stata molto semplificata, ma solo così. Baran aveva già bevuto parecchio da casi che ora si proponeva di andare a salutare Paolinka prima di lasciare definitivamente Minsk. Non sarebbe stato mica capace di andarsene senza averla perlomeno vista un'ultima volta. Ti consiglierei di rinunziare, gli disse Kasich. Il cuore a volte fa dei bruttissimi scherzi, sai. Dammi ascolto, mongolo, non andarci. Bevici su un altro quartino e vedrai che ti passerà la malinconia. Heimweh. Oleg continuava a fissare gli occhi nel vuoto senza rispondere, poi si alzò e mosse verso la porta. Non posso, credi, bisogna che io la veda e che possa spiegarle. Kasich capì che non c'era nulla da fare e non insistette. Quando Oleg arrivò a casa, Pavka non era ancora rientrata. Allora si dispose ad aspettarla passeggiando in su e in giù nervosamente e guardando ogni 2 minuti l'orologio. Non comparve che verso le 8 aveva dovuto sistemare parecchie cose in negozio prima di uscire. Baran sedeva in un angolo col berretto in testa, alzò gli occhi su di lei e fu stupito di vederla vestita diversamente da come l'aveva lasciata. Invece del solito vestito che metteva per recarsi in negozio, indossava un elegante tailleur che egli stesso le aveva regalato. Ciao, sono un po' in ritardo, avevo un tremendo mal di testa e ho dovuto fare 2 passi, così sono andata a vedere come stava mio padre. Ah, da tuo padre, vestita così. Pavka si ingarbugliò nel tentativo di improvvisare una scusa plausibile, ma Oleg non l'ascoltava neppure e continuò a fissarla con una strana espressione negli occhi. Poi si alzò e dopo un attimo di esitazione disse con voce atona: addio, Pavka, io me ne vado per sempre. Se ti ho fatto del male, credimi, perdonami. Non ne avevo certamente l'intenzione. Qualche volta capita quando si vuol molto bene, ma senza volerlo. Pavka allibì. Se Baran se ne fosse andato ora, essa sarebbe stata certamente accusata di complicità. Ma che cosa dici, Oleg? Non ti capisco. Me ne vado da Minsk. Parto stasera, me ne vado da te per sempre. Ma Oleg, non voglio, com'è che puoi lasciarmi così? Che cosa è che è accaduto? Non è accaduto niente, Pavka. Addio. Si avviò verso la porta, sentiva che i suoi nervi non reggevano più e che se non se ne fosse andato subito avrebbe finito per rimanere e per ricominciare da capo tutto. Non osò nemmeno stringere la mano di Pavka. Pavka. Paolinka si slanciò verso di lui. Aspetta, Oleg, aspetta un momento solo, vengo con te. Non voglio che mi lasci qui sola. Mi hai proposto di andare a Vilnius e io stupidamente ho rifiutato perché ero convinta che avresti rinunciato anche tu. Ma se hai, tu, proprio deciso di partire, verrò anch'io. Non importa se abbiamo litigato. Ecco qui la prova che non ti servono ancora. Vedi questa bottiglia di acquavite? L'ho comprata, apposta per te, perché in casa non ce n'era più. E allora berremo alla nostra riconciliazione. Baran era sbalordito. Non si sarebbe mai attesa una reazione simile da parte di Pavka e fissava con occhi stralunati l'amante, incapace di parlare. Finalmente però mormorò: Pavka, Pavkita mia, Oleg mio caro, ti ripeto ancora che ti voglio bene, che non voglio separarmi da te, che sono disposta a seguirti anche in capo al mondo piuttosto che perderti. Ma davvero, proprio così dici, Paolinka? Svore di... Te lo giuro. Aspetta allora. Oddio, come fare? Devi pur prendere con te qualcosa. Riuscirai a sistemare tutto in un paio di giorni, anche in un giorno solo, pur di non separarmi da te. Baran tirò un sospiro di sollievo e quindi disse: e va bene, allora corro subito ad avvertire Kasich, lo persuaderò a partire con noi fra 2 giorni. Sì, tesoro, ma torna presto, mi fai stare in pensiero. E intanto preparerò la cena, una cenetta come la prima sera, ricordi, sarà delizioso. Se sapessi come ti amo, Oleg, solo che sono molto meno espansiva di te. E lo abbracciò e lo baciò sulla bocca. Torna presto, tesoro, mi raccomando. A Baran sembrava di avere le ali ai piedi mentre correva da Kasich. una gioia mai provata prima gli gonfiava il petto. Paolinka, sì, quella stessa Paolinka che si chiamava Pavka, lo amava, sì, lo amava. E giunse da Kasich così trafelato, così eccitato, che a stento riusciva a parlare. Kasich, amico mio, tutto è andato diversamente. Pavka, vieni con noi, capisci? L'ha voluto proprio lei. Ora so perché vivo, Kasich. Mi devi regalare un po' di pazienza e due giorni, due soli giorni, dopo domani sera. Non si può buttare via tutto, ti pare? Domani venderemo quello che sarà possibile, poi si partirà tutti e tre insieme. Moretzky, benché a malincuore, si disse disposto ad attendere. Aveva già pronto tutto per la partenza e ora doveva invece cambiare i suoi piani. Tuttavia non volle contrariare l'amico, il compagno, né d'altra parte gli andava a genio di mettersi in viaggio da solo. Un minuto dopo Baran era già in strada verso la collinetta d'oro. Entrò in casa fischiettando e trovò Pavka che aveva appena finito di abbigliarsi come se avesse dovuto andare ad una festa. Si alzò vedendolo entrare e con un piccolo grido di gioia gli si buttò alle braccia, al collo. Olek! Starnazzando come un'oca. Come sono felice! La tavola era apparecchiata e si sedettero subito. Baran trovò ottima la vodka, benché fosse di pessima qualità, ma lodò tutto ciò che Pavka aveva preparato. La ragazza starnazzava senza posa, facendo progetti su progetti per il giorno dopo, per il viaggio, per l'avvenire. Cercò di tirare più in lungo che poté la cena perché Oleg si stancasse e dormisse, poi più profondamente. Verso mezzanotte andarono a letto. Pavka aveva in programma come ultimo numero della sua tragica farsa di dare il colpo di grazia ad Oleg, già stordito dai fumi dell'alcol, riducendolo in uno stato di prostrazione fisica con l'ebbrezza più sfrenata. E difatti fece un tale sfoggio di lussuria e mise un tale impegno nel recitare la parte della donna vampiro che a momenti dimenticava lo scopo che si era prefissa, tendendo all'amante anche la trappola dei sensi. La sua morbosa immaginazione non era mai stata così eccitata come ora all'idea che quell'uomo che fremeva di voluttà fra le sue braccia era ormai condannato e che quella era la sua ultima notte d'amore. Dopodiché non ci sarebbe stato per lui che la fine, forse l'alba del nuovo giorno, sarebbe stata l'ultima alba della sua vita. Nowhere on the edge of a cliff. Someone told me Jesus was the devil's lover. Why are we mad? the 69th floor. All the cars lost in the scrapyards of paradise. The newspaper photographs of all come alive. Dead in the streets, who's that girl? Questi erano Ultravox con il brano Fear in the Western World. Ora leggiamo l'ultima parte del testo di radiazione. C'è troppo caos sui tantissimi siti e blog anarchici, e non aggiungere un proprio pensiero, una propria critica o condivisione significherebbe uniformarsi agli altri. Radiazione lo fa, ma non si ritiene migliore degli altri, ma diversa sicuramente. Da un po' di tempo abbiamo deciso di tradurre i nostri testi anche in inglese, per il semplice motivo che per alcuni degli ultimi, e non solo di radiazione, è stata chiesta da qualcuno la non pubblicazione su altri siti e blog. Non pensiamo che la nostra critica sia così fondamentale per gli anarchici di tutto il mondo, ma avremmo voluto creare un dibattito perché sappiamo che non tutti gli anarchici fanno richieste di abolizioni allo Stato. Quindi, se il punto di vista nostro anarchico è stato volutamente nascosto, non ci disperiamo, ma ci auguriamo che finito il santo sia finita la festa, nel senso che non tirate fuori ora i testi di critica, perché sarebbe un'ulteriore volta rendersi ridicoli. Dell'occasione, sì. Anzi, tutta questa storia ha fatto sì che ci conoscessimo bene tutti, che laddove ce ne fosse ancora bisogno, si è capito perfettamente che si è abusati del termine nichilismo, ci ha fatto conoscere così bene da capire con chi essere affini e chi no. Tutto continuerà col cazzo. E poi c'è una citazione di George Palante tratto dalla sensibilità individualista. La sensibilità individualista entra inevitabilmente in conflitto con la società in cui si evolve. La tendenza della società, infatti, è di ridurre più che possibile il sentimento dell'individualità, l'unicità con il conformismo, la spontaneità con la disciplina, l'istantaneità dell'io con lo spirito gregario, la sincerità del sentimento con l'insincerità inerente ad ogni funzione socialmente definita, la fiducia in sé e l'orgoglio in sé con l'umiliazione inseparabile da ogni addomesticamento sociale. È perciò che l'individualista è il sentimento di una sorda lotta tra il suo io e la società. Egli non vuole essere ingannato, non vuole annientarsi davanti ai pregiudizi. Io di sicuro sono io, ciò che sono, ciò che mostro, ciò che rappresento. Non sono sicuro che tutti siano se stessi e rappresentano se stessi, viceversa, penso che molti non hanno la capacità di esserlo, non hanno una spina dorsale. Non si critica, non si dice la propria per il semplice motivo di non farsi inimicizie, per non farsi buttare fuori dalla società, tra virgolette. Fa più paura la solitudine che vivere nell'eterna contraddizione in armonia con gli altri mentre ci si accoltella alle spalle. Di fronte a tutto ciò non posso che essere sempre più convinto di camminare da solo, anziché con chi mi dà ragione sussurrandomelo nell'orecchio e fa finta di non conoscermi davanti alla maggioranza uniformata. Non mi scalfisce né sentirmi dire nell'orecchie «hai ragione», anzi mi irrita nell'essere criticato. Entrambe le cose non aumenterebbero la stima che ho di me stesso, tantomeno la sminuirebbero. Mi ritengo un libro aperto perché cerco di essere sincero anche attraverso i miei modi, che a molti possono sembrare barbari e inopportuni, ma sicuramente chi mi incrocia sul suo cammino potrà dire lui la pensa così, mentre io non potrò pensare la stessa cosa incrociando un pezzo di puzzle della maggioranza. Allora, tornando al punto di partenza, quando ricordavo che quei primi siti di controinformazione degli antagonisti diventarono pretesto delle discariche e da cui abbiamo voluto sottrarci tirando su i siti e blog anarchici, penso che non siamo stati capaci di fare la differenza. Anzi, abbiamo fatto di peggio, perché quelli vecchi degli antagonisti, che non si sa a che cosa, sono rimasti uguali, oppure tanti sono spariti, mentre i nostri stanno avendo il triste ruolo di riformatori dell'anarchismo. Le relazioni tra i compagni in carne ed ossa non sono poi tante diverse, per salire la propria, al contrario di qualche autodefinito illuminato, e i suoi seguaci, come pecorelle, formano una maggioranza che completa la sua metamorfosi trasformandosi in una setta che ha come parola da portare avanti ad altre pecorelle i dubbi sul vostro essere anarchico. Facendo un ultimo passo indietro, è da quasi un anno che si pensa cosa fare del sito di radiazione, si è pensato di chiuderlo più di una volta, ma poi mi sono chiesto perché l'anarchismo deve essere solo questo? E allora, finché sentirò la necessità di dire la mia, questo progetto continua, altrimenti seguirà le sorti della sua vecchia antenata, affinità periodico insurrezionalista, morta perché io ho ritenuto che a molti anarchici all'epoca non avevo da dire più nulla. Di questo passo si resta soli? In ogni caso, nessun rimorso. Radiazione, metà aprile 2015. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Psycho Pomps con il brano 8, e poi dopo l'ultima lettura per oggi del libro Nessuno ci salva di Sergiu Piasecki. We'll be right back. Baran aveva già bevuto parecchio da Kasich e ora si proponeva di andare a salutare Pavka prima di lasciare definitivamente Minsk. Non sarebbe mica stato capace di andarsene senza averla vista un'ultima volta. «Ti consiglierei di rinunziare», gli disse Kasich. «Il cuore a volte fa dei brutti scherzi. Dammi ascolto, mongolo, non andarci». Verso le 5 si scostò adagio da Ole, che scivolò giù dal letto. Andò in punta di piedi alla porta e girò la chiave nella serratura, poi si fermò un momento in ascolto, trattenendo il respiro, e le parve di sentire un leggero scalpiccio di passi in cortile. «Che già sia Samantha», pensò. Per un po' di tempo rimase lì, in piedi, immobile, ascoltando il respiro di Baran, i lievi rumori che venivano dall'esterno e il battito del proprio cuore. Poi, pian piano, premette la maniglia e aprì la porta, accostandola poi dietro di sé. La notte era buia e fredda. Non aveva addosso che la camicia la notte. Fece qualche passo verso la legnaia, era brividendo di freddo e di paura, ma subito si fermò inorridita. Da dietro il muro vide sbucare un'ombra nera, si sentì gelare il sangue nelle vene, avrebbe voluto fuggire, ma il terrore la inchiodò sul posto. Seguì con gli occhi sbarrati quell'ombra che veniva verso di lei strisciando lungo il muro, poi udì un bisbiglio. «Sei tu, Pavka?» «Sì, Costantino.» «Dorme?» «Sì.» «E la rivoltella?» «Ah, gliel'ho tolta.» «Bene, bene, ritorna a letto, entreremo tra un 10 minuti, lascia se chiusa la porta.» «Ma io ho paura, Costantino, non fare la scema, fila!» Pavka allora rientrò nella stanza. Ora Oleg russava leggermente. Si distese sul letto supina con gli occhi fissi allo spiraglio della porta, un tremito nervoso la scuoteva tutta e il cuore le martellava con violenza nel petto. Ad un certo punto Oleg Baran, senza svegliarsi, cambiò posizione e appoggiò una mano sul suo braccio, poi cominciò a borbottare di nuovo. Le sue labbra erano vicinissime all'orecchio di Pavka, che stavolta poté distinguere qualche parola. «Pavka, amore mio, tutto andrà bene, vedrai. Paolinka, mia dolce ermosita. Sì, saremo felici.» La porta si aprì con un cigolio impercettibile. Sulla soglia apparvero, nella luce incerta dell'alba, le sagome di 5 uomini che ad una scivolavano nella stanza senza fare il minimo fruscio, simili a spettri. Pavka avrebbe voluto urlare, ma l'orrore sembrava averla paralizzata. Un attimo dopo, 5 fasci luminosi si concentrarono sul letto. Baran si mosse, ma non si svegliò neppure ora. Doveva sentirsi sicuro, proprio sicuro, accanto a Pavka. Con un rapido gesto, uno degli agenti strappò dal letto la coperta e tutti e 5 si buttarono su di lui, colpendolo ripetutamente alla testa col calcio delle rivoltelle. Pavka allora lanciò un grido e scivolò giù dal letto, sul pavimento. Questo subito strappò a Baran un sordo rantolo. «Ah, Pavka, non temere, non ti faranno...» Cercò di svincolarsi, ma non riuscì neppure a muovere le braccia su cui pesavano i corpi di 2 agenti bolscevichi. 2 altri gli sedevano sulle gambe e uno gli premeva la pancia contro il letto. Un nuovo colpo sulla tempia lo intontì, il sangue gli colava dalla fronte sugli occhi, offuscandogli la vista. Sentì che gli stavano legando le gambe e le braccia e non oppose più alcuna resistenza e perdette, sì, finalmente perdette i sensi. La casa, quella casa, era tutta circondata. Anche Jan era stato preso nel suo letto. Gli agenti sapevano del passaggio che metteva in comunicazione i 2 alloggi. Mentre 5 di essi si occupavano di Baran, altri 3 penetrarono nella stanza di Yanna, anch'egli fu colto completamente di sorpresa. Sonno seguiva con uno sguardo carico d'odio quegli uomini che, dopo avergli messo le manette, si aggiravano per la stanza rovistando nei cassetti in cerca di armi. Perquisizione. Nastica però era calmissima. Yan vide che il suo sguardo sfavillante sbirciava l'accetta che era accanto alla legna della stufa. Poco dopo un camion che aspettava nelle vicinanze entrò rombando nel cortile. Yan vi fu fatto salire, mentre Baran, che non aveva ancora ripreso conoscenza, vi fu portato di peso. Alcuni agenti rimasero nella casa per eseguire una perquisizione. Il camion si mosse, lasciandosi dietro la piccola casa col suo cespuglio di lilla ormai sfiorito. I pazzi sono di Oleg Baran, il canile vuoto di Caro e due giovani donne che guardavano pallide da due finestre attigue. Radio Azione. Radioazione.org. Radioazione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione. Radioazione.